Solo il Signore, perché uno è il deserto, e Abramo vide un angelo. Camminò con il Signore 175 anni, fu il suo tempo e poi non fu più. Solitudine di pietra, verso acque tranquille, vanno tre carovane, perché tre sono i profeti, ma è uno, uno è solo il Signore, perché uno è il deserto.